in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi è uno di quei giorni, una di quelle domeniche in cui le aperture sono diverse, ognuno fa una scelta per il titolo principale. Tra l'altro, naturalmente vi ricordo, se siete già svegli, volete mandare un messaggio al 349-238-6666, un sms o un messaggio WhatsApp, e poi vabbè, c'è il mio account Twitter che è Giulia-Crivelli. Ma cominciamo dal Sole 24 Ore, che continua in quell'opera che noi chiamiamo Rating 24, cioè vengono valutate le riforme mano a mano che arrivano i decreti attuativi, perché sappiamo, lo diciamo spesso, che le leggi vengono annunciate, vengono approvate, però poi ci vogliono i decreti attuativi, se no restano lettera morta. E allora il titolo, Riforme per lo sviluppo, l'attuazione sale al 78%. Mancano ancora l'appello, però, spiega il Sole 24 Ore in prima pagina, e poi trovate i dettagli a pagina 3, 241 decreti rispetto ai 1092 previsti dalle nuove leggi. In prima pagina anche un'interessante analisi di Alberto Negri, che poi continua a pagina 8, che cosa verrà dopo l'ISIS, il populismo medio orientale. Questa è la risposta in sintesi di Alberto Negri, quindi questo populismo, semplificando naturalmente, si parla di populismo dilagante in Europa e per chi è d'accordo anche negli Stati Uniti con la vittoria di Trump, sarebbe, secondo Alberto Negri, anche la prossima frontiera nel dopo ISIS. Se davvero l'ISIS è vicino a una sconfitta, come sentiamo dire da qualche settimana. La lettera al risparmiatore della domenica, consueta della domenica, di Vittorio Carlini, dedicata a Fineco, trovate a pagina 20 tutta appunto l'analisi di Vittorio Carlini, collega della redazione di Finanza, su questo titolo quotato. Il Corriere della Sera invece titola su un'intervista che ha al ministro dell'Economia Padoan, e il titolo è un virgolettato: nessun complotto dei mercati. Si è parlato nei giorni scorsi, con il crescere dello spread tra il tasso di interesse del BTP italiano e del Bund tedesco, quindi quando si mettono a confronto questi due titoli di Stato, si è parlato di nuovo di un complotto dei mercati, appunto. E Padoan risponde: non temiamo l'aumento dello spread. Il ministro reagisce anche a quello che è stato, lo ricorderete nei giorni scorsi, un allarme di Banca Italia che teme per la stabilità dopo gli scossoni internazionali della Brexit, che sappiamo il referendum risale al 23 giugno, ma ancora non si sa con che modalità avverrà l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, l'altro scossone naturalmente Trump, e c'è anche un richiamo in questo titolo principale del Corriere della Sera alle parole di Renzi di ieri, che avrete sicuramente sentito o ai telegiornali o nei GR, che ha definito il fronte per il no al referendum del 4 di dicembre una cozzaglia. Devo stare molto attenta a citare, ogni volta che citiamo qualcuno per il no, anche qualcuno per il sì, perché ricordiamo, da venerdì non è più permesso divulgare sondaggi sul referendum, e soprattutto siamo tutti in regime di par condicio, cioè appunto dobbiamo citare sempre, se citiamo qualcuno del no dobbiamo citare qualcuno del sì. La foto notizia del Corriere della Sera è dedicata a un racconto di Marco Imarisio, che nelle Marche, nelle zone del terremoto, ci racconta questa storia di una casa famiglia. Il terremoto ci ha divisi, fateci tornare insieme. È un centro appunto di Tolentino, fondato da Valentino Nobili e dalla moglie Roberta. Il sisma del 30 ottobre ha disperso tutti gli ospiti disabili di questo centro, e molto spesso queste persone che hanno in comune un qualche tipo di disabilità mentale ritrovano una sorta di equilibrio e magari persino di serenità in questi centri, però adesso, per via del terremoto, appunto, tutto questo è stato interrotto. La Repubblica titola sulle parole di Renzi di ieri: Renzi, contro di me è solo una cozzaglia. Secondo Renzi il no è disperato, ma naturalmente ci sono state anche tutte le manifestazioni. Continua per esempio il tour del Movimento 5 Stelle, che si muove, alcuni suoi esponenti si muovono in treno e fanno propaganda per il no al referendum, sia con le persone che incontrano sui treni, sia nelle città dove si fermano, e continuano anche naturalmente la campagna elettorale degli altri esponenti per il no, cioè da Forza Italia alla Lega, come sappiamo. Però Repubblica ha quello che chiamiamo palchettone in gergo, cioè un titolo sopra il titolo che diciamo non è il titolo principale, però in questo modo mettendolo subito sotto la testata assume una grande importanza e richiama questa volta una lunghissima inchiesta, pensate quasi un piccolo libro che poi trovate da pagina 31 a pagina 42, il resoconto di un viaggio di Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica. Ha lasciato in gennaio la poltrona a Mario Calabresi, ma continua a scrivere per il giornale, e si intitola La sottile linea rossa, viaggio in Italia cercando la sinistra. Da Torino a Trieste fino a Bari, l'inchiesta affronta il problema degli esclusi e insegue il filo fragile di una speranza nel paese di oggi. La Repubblica mette in prima pagina anche quella che viene definita l'impresa storica del rugby azzurro che ha battuto il Sudafrica, che è una delle squadre di rugby più forti al mondo. Come ogni domenica, da quando lo dirige Tommaso Cerno dalla fine di luglio, l'Espresso in edicola con la Repubblica, e la copertina è dedicata a Trump, che viene ridisegnato, non è neanche una caricatura, è proprio un disegno, anzi sembra quasi più bello il suo tupè, meno strano in questo disegno. Il corpo però è quello di un pugile, Trump versus Europe, e disegnati i più piccoli, sempre su corpi di pugili, ma i volti sono i loro, Mario Draghi, François Hollande, Angela Merkel e Matteo Renzi. Sale sul ring il nuovo presidente USA che si abbatte sui leader del vecchio continente nel momento di massima crisi. Due visioni opposte del mondo, della NATO, della globalizzazione, che si scontrano come non era mai avvenuto dal 1945, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La stampa ha un titolo ancora diverso perché ha fatto un'inchiesta, come spesso capita alla domenica, sulla crisi dei sondaggisti. Se ne è parlato molto sia per i flop delle previsioni sulla Brexit, fino all'ultimo era dato in vantaggio il Remain e poi ha vinto il Leave, e naturalmente anche il flop dei sondaggisti negli Stati Uniti, anche se lo ricordo sempre io ho visto sondaggi dove i due candidati erano appaiati, siccome divisi da due punti, siccome l'errore statistico è più o meno di quell'ordine, non mi sembra poi così giusto parlare di sondaggi. Soprattutto ricordiamo sempre che nel caso degli Stati Uniti, che hanno un sistema elettorale diverso dal nostro, Hillary Clinton ha avuto la maggioranza dei voti popolari, quindi numericamente Hillary Clinton ha avuto più voti di Donald Trump, che però ha avuto più voti dai grandi elettori. La fotonotizia è dedicata al rugby, è la foto di una mischia, perché appunto ieri a Firenze l'Italia ha battuto 20-18 il Sudafrica, che è stato due volte campione del mondo. L'Avvenire titola, come potete immaginare, sulla conclusione definitiva, perché le porte sante avevano cominciato a chiudersi settimana scorsa, ma oggi si chiude appunto il Giubileo della Misericordia, e quindi il titolo: il Papa crea 17 cardinali contro inimicizia e violenza, amate i nemici. E poi in prima pagina, richiamato quella vicenda che ricorderete di tre settimane fa, quando gli abitanti di Gorino in Emilia Romagna si opposero all'accoglienza di alcune donne nigeriane che dicevano chiaramente: stiamo scappando dalle violenze di Boko Haram, gli islamisti estremisti particolarmente attivi in Nigeria, e ora ci raccontano le loro storie. Ricorderete, quella è stata una vicenda molto controversa, proprio sono stati fatti degli errori, nel senso che quando si impone l'accoglienza, in questo caso era stato destinato a queste ragazze un centro che in realtà era un centro dove si riunivano gli abitanti di questo piccolo paese, ovviamente tutti hanno detto ci sarebbe stato un modo probabilmente migliore, più ragionato, per evitare la prima reazione del paese, che è stata quella appunto di non volere quelle ragazze che scappavano dalla guerra e dalle violenze. Ultima segnalazione prima di una pausa: il Messaggero, che ha invece un'intervista a Dario Franceschini, ministro della cultura, e il titolo scelto, un virgolettato: Renzi governi anche con il no. Questo è interessante perché sostanzialmente ieri Renzi ha fatto capire che se invece vincerà il no, lui potrebbe in effetti dimettersi da primo ministro. Ci lasciamo un attimo per una pausa, ci saranno anche le informazioni sul meteo, ci ritroviamo subito dopo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta In primo piano. Buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, rieccoci, grazie alle persone che sono già sveglie e addirittura mandano già messaggi al 349-238-6666. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, Libero titola "Il referendum finisce a insulti" e il riferimento naturalmente è a quello che ha detto Renzi ieri, ma anche alle risposte che ha dato poi il fronte del no. Vi segnalo però che da questa domenica, con questo articolo, Gianluca Vacchi inizia una collaborazione con Libero, con questo primo articolo è molto lungo, forse lo saranno anche gli altri, inizia in prima pagina e continua a pagina 9, io credo che forse tutti sappiano chi è Gianluca Vacchi. Qui viene definito imprenditore, re dei social network, imprenditore un po' così fantasiosamente, nel senso che lui appartiene a una famiglia di imprenditori, riceve dei cospicui dividendi dalla holding di famiglia, lui soprattutto è appunto molto attivo nei social network. Il titolo di questo primo analisi geopolitica del re dei social network Gianluca Vacchi è "La lezione di Trump, pensa in grande e non curarti d'altro", e vi invito a leggerlo perché secondo me è involontariamente comico, oppure magari alcuni lo troveranno invece ricco di spunti, tutto è possibile. Sempre in prima pagina poteva mancare un attacco di Antonio Socci a Papa Francesco? No. E il titolo questa settimana è "Il compleanno amarissimo di Papa Bergoglio. Tra un mese Francesco fa 80 anni, ma i motivi per festeggiare sono pochi". E poi vedremo sull'Avvenire, che invece approfondisce anche le nomine dei 17 candidati, nuovi cardinali, scusatemi, si può sempre leggere tutto in modi diversi. Sicuramente non è difficile leggere le cose in modo diverso da Antonio Socci, che attacca sistematicamente Papa Francesco qualsiasi cosa egli faccia. Il giornale torna sulla questione dei referendum, in questo caso il titolo è "C'è aria di brogli, ecco i tre buchi neri del voto all'estero". Sapete che c'è già stata la grande polemica sul fatto che il Comitato per il Sì abbia mandato a tutti gli italiani residenti all'estero, che hanno la possibilità di votare per il referendum del 4 dicembre, una lettera per spiegare perché si deve votare sì, perché si dovrebbe votare sì, secondo il Comitato per il Sì. Non si è ancora capito se effettivamente il Comitato per il No aveva chiesto e ottenuto le stesse liste e non ha mandato la lettera per motivi che non sappiamo, oppure se queste liste davvero non c'è chiarezza su questo punto, che naturalmente è molto grave. Ma vi segnalo sul giornale un articolo interessante che poi trovate a pagina 16, "La ricerca di cui nessuno parla. Ci sono 5 milioni di uomini vittime delle donne violente". È uno studio dell'Università di Siena, poi ne leggeremo un pezzo, dove appunto si parla delle violenze. In rarissimissimi casi si arriva all'omicidio, però sono violenze psicologiche o che portano magari alle difficoltà economiche degli uomini, naturalmente in caso, come spesso succede anche nelle violenze sulle donne da parte degli uomini, in caso di separazioni o divorzi. La Verità, che come sapete è il nuovo quotidiano, nuovo ormai comincia a avere quasi 2 mesi, però diciamo che è proprio nuovo, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro dopo che ha lasciato la direzione di Libero a Vittorio Feltri, o meglio Maurizio Belpietro ha lasciato la direzione di Libero e poi è arrivato Vittorio Feltri. L'editoriale è sul referendum ed è di Maurizio Belpietro. "Cambiare tanto per farlo è solo un'idiozia", è uno degli argomenti del sì, che bisogna cambiare per forza. Ma il titolo principale, come sempre, come quasi sempre, è dedicato a un'inchiesta che solo La Verità ha, fatta dai suoi giornalisti. In questo caso si è concentrata su Bianconi, direttore generale di Banca Marche, che in pochi anni ha fatto un buco da 500 milioni e ha bruciato 1,5 miliardi delle fondazioni e degli azionisti. Quindi calcolando, dividendo questo buco che ha fatto, banchiere pagato 5.821 euro al giorno per farne perdere 684.931, esattamente appunto al giorno, ogni 24 ore. La storia la racconta Francesco Bonazzi a pagina 3. Poi c'è una lunga intervista che poi trovate a pagina 13 a Pietrangelo Buttafuoco, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono perché è insieme a Giovanni Minoli e a Mario Secchi, ogni mattina lo potete sentire su Radio 24. Il titolo scelto per questa intervista, molto forte, alla cristianità resta un solo difensore ed è Putin. La trovate poi a pagina 13. Il manifesto invece ha un titolo ancora diverso, con una fotografia di Angelino Alfano, il ministro dell'interno, il vespro siciliano. Qui il riferimento è alla discussione che c'è in questo momento sull'opportunità di mandare l'esercito a Milano dopo una serie di episodi estremamente violenti in città, con accoltellamenti e soprattutto legati alle bande che ci sono a Milano. Il ministro Alfano ieri ha detto: più militari nelle strade, stop ai profughi per quanto riguarda Milano, perché ce ne sarebbero già abbastanza. Lo stesso titolo più o meno è quello dell'Unità, cioè sullo stesso argomento: Milano due punti, meno profughi, più militari, in arrivo 150 uomini dell'esercito e come aveva chiesto il sindaco Sala. Eppure sottolinea l'Unità, citando i dati, gli ultimi dati sui reati, che sarebbero in calo del 7%. Il Fatto Quotidiano torna sulla questione delle lettere all'estero, soldi di Serra e C. Davide Serra, sapete, è l'investment banker, ha fondato un fondo di investimento e da sempre si dice sia vicino a, o comunque lo consigli Matteo Renzi. È stato più volte alla Leopolda, la manifestazione ideata da Renzi a Firenze. E poi ci sarebbe anche, secondo il Fatto Quotidiano, uno sconto di poste per mandare tutte queste lettere. Il finanziere tra i donatori chiamati in aiuto, il PD paga 52 centesimi a invio, meno del prezzo standard. La Gazzetta dello Sport naturalmente titola sul derby di stasera, la grande sfida alle 20.45, Milan-Inter, derby Champions, e ci sono naturalmente tantissimi approfondimenti all'interno. Andiamo alle pagine interne dei giornali. Dal Sole 24 Ore vi segnalo un approfondimento di Rita Fatiguso, la nostra inviata in Cina, che in questo momento si trova a Shanghai, perché a Shanghai c'è la prima edizione del Salone del Mobile a Shanghai. Il Salone del Mobile, come sapete, si tiene in aprile a Milano, è forse la più famosa fiera di Milano perché coinvolge tutta la città con quello che viene definito il fuorisalone. Siccome la Cina è uno dei paesi che sta più crescendo come mercato per il mobile e per il mobile italiano, è stato fatto questo grande investimento di portare il Salone del Mobile a Milano. E Rita ci racconta: in 9.000 la prima giornata del Salone di Shanghai, l'organizzazione ha dovuto addirittura bloccare gli ingressi. Cinesi all'assalto del mobile italiano. E Roberto Snaidero, che è il presidente del Salone del Mobile e anche di Federlegno, che è l'associazione che raccoglie moltissime imprese del settore, dice: è il frutto di un percorso di avvicinamento a questo mercato. Sulla prima pagina Finanza Mercati un aggiornamento sulla questione MPS, Monte dei Paschi, che è la più antica banca italiana, la più antica banca del mondo, ma è anche, lo sapete, il grande malato delle banche italiane ed europee. Giovedì ci sarà un'assemblea. In vista di questa assemblea Marco Ferrando ci racconta rebus sulla conversione dei bond. È corsa al raggiungimento del quorum minimo del 20%, domani ci sarà comunque già una riunione del board di MPS in vista poi dell'assemblea, e vedremo appunto che cosa succederà. È la sesta settimana che c'è questa nuova iniziativa del Sole 24 Ore, Sport e Business, una pagina al sabato e una alla domenica dedicata appunto al valore economico dello sport, e non poteva che essere questa settimana su Milan-Inter. San Siro si accende per il primo derby del Dragone, perché del Dragone, il Dragone è il simbolo della Cina. Sapete che l'Inter è già di proprietà cinese, la proprietà del Milan sta per passare ufficialmente anche alla Cina. Da qui, alla vigilia della cessione dei rossoneri, si gioca una stracittadina da tutto esaurito. Dal Corriere della Sera invece vi segnalo un approfondimento su una delle tante vicende che ci perdiamo un po' dopo, perché altre notizie prendono il sopravvento. Paolo Foschini ci racconta da Haiti: rinascere dopo l'uragano, con i volontari della Fondazione Rava nel paese devastato che tenta di trovare anche un leader politico. Una pagina intera di Gian Antonio Stella, un'anticipazione sul film Io ci sono, che racconta la storia straziante di Lucia Annibali, che fu sfregiata con l'acido dal suo ex Luca Varani, che è stato condannato a 20 anni per questo delitto. Accade nel 16 aprile 2013. Da allora Lucia ha dovuto sottoporsi a una quasi infinita, no, infinita no, speriamo che finisca, a una lunga serie di interventi per cercare di ridare, di ridarle un volto. Ci fermiamo però un attimo per la pausa sul traffico, ci risentiamo subito dopo per alcune altre segnalazioni dalle pagine interne dei quotidiani di oggi. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben trovati per quest'ultima parte della rassegna. Vi segnalo ancora due o tre cose dalle pagine interne dei giornali e poi passiamo ai supplementi culturali. Il Corriere della Sera, che come ogni domenica ha una sezione dedicata alla salute, questa settimana parla del sonno, di quante ore si deve davvero dormire. Molto interessante capire appunto cosa dicono le ultime ricerche in fatto di sonno e di esigenza di sonno. Vi segnalo poi dalla Stampa una bellissima intervista a Stan Smith, che è un tennista che forse è più famoso per le scarpe che prendono il suo nome che non per i suoi successi in carriera. E l'intervista di Paolo Mastrolilli è intitolata "Sono un uomo, non sono una scarpa, però racconto le storie di chi le ama", perché questo grande tennista ha compiuto 70 anni e ha raccolto gli aneddoti su questo modello di scarpe prodotto dalla Adidas, che è veramente penso il longest seller della Adidas, che porta appunto il suo nome. Ultimissima segnalazione, perché lo trovo molto interessante visto che ne parliamo spessissimo, della sharing economy. C'è uno studio che dice che in realtà in America si sta già un po' spegnendo questo fenomeno della sharing economy, quindi la ripresa fa male alla sharing economy negli Stati Uniti, un mercato saturo, lo dice uno studio di JP Morgan, perché gli americani comincia a diminuire il numero di americani che si rivolge a società come Uber, società di servizi come Uber e Airbnb. Ma passiamo, come dicevo, ai supplementi culturali. Cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola I conoscenti e parte da una citazione, una massima di La Rochefoucauld, questo pensatore francese di cui tra l'altro lo scorso anno nei millenni di Einaudi è stata pubblicata l'intera raccolta di massime. E quella scelta da Gianfranco Ravasi è questa: nelle difficoltà dei nostri conoscenti troviamo spesso qualcosa che, confessiamolo, non ci dispiace del tutto. Hai appena sentito al telefono un amico che ha riservato su di te una difficoltà che lo attanaglia. Riversato su di te una difficoltà che lo attanaglia. Hai cercato qualche parola di condivisione e di vicinanza nel repertorio consolatorio. Forse hai anche avuto qualche accento sincero. Chiusa la telefonata, ne parli con tua moglie e si comincia a pettegolare, e la frase che spesso affiora è implacabile: ma po' se l'è anche meritata, o simile. C'è la sottile soddisfazione che a te non sia capitato, c'è il giudizio poco caritatevole sull'altro, c'è il rigurgito dell'egoismo e dell'indifferenza, c'è un leggero e malcelato gusto per le altrui difficoltà. Questo e altro ci suggerisce la massima di La Rochefoucauld. L'abbiamo evocata perché ci renda più realisti quando confidiamo agli altri le nostre pene e soprattutto perché ci faccia più generosi e leali col prossimo. La copertina, il pezzo di copertina vero e proprio è una lunga recensione di un libro appena uscito di Sarah Bakewell per Fazzi al Caffè degli Esistenzialisti, che verrà presentato proprio oggi a Milano all'interno della rassegna Book City. Il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, alterna alcune lettere che ha ricevuto da giovani e il suo commento appunto e l'invito, il coraggio di Marta è una di queste lettrici che gli hanno scritto, la fiducia contagiosa da costruire, quindi il tema dei giovani che devono avere fiducia nel futuro. Altra iniziativa che come Sport e Business è partita 6 settimane fa e continua e si chiama C'è qualcuno che sa leggere, sono 4 pagine all'interno del domenicale dedicata ai lettori più giovani. Vi segnalo questa settimana un articolo secondo me bellissimo che mi ha reso molto felice, di Camilla Tagliabue, che si intitola Scuola di calligrafia per bambini 4.0, dove si scrive che i ragazzi sono assolutamente rapiti dalla scrittura a mano, non la recepiscono affatto come noiosa e faticosa, anzi capiscono in fretta che questa prassi permette loro di comunicare parte di sé. Io adoro l'email, però allo stesso tempo continuo a avere per esempio un'agenda cartacea, quindi per questo dico sono particolarmente felice. Io credo che le due cose possano convivere perché hanno funzioni diverse, cioè usare i computer per scrivere ma anche il piacere invece di usare uno strumento per scrivere e la carta. Sempre a proposito di carta, come diceva Marguerite Yourcenar, bisogna festeggiare ogni volta che apre una biblioteca e disperarsi quando ne viene distrutta un'altra, una, per fortuna capitava nell'antichità, adesso capita sempre meno spesso. Il titolo di un articolo di Fulvio Erace, Scaffali a misura d'uomo, parla della nuova biblioteca universitaria realizzata da Renzo Piano nel quartiere delle Albere nei pressi del Muse a Trento. La lettura del Corriere della Sera affida la copertina come sempre a un artista, questa settimana è Tobias Rehberger, però vi segnalo dall'interno un altro articolo interessantissimo che prende spunto da alcuni libri, come spesso fa il Corriere della Sera, La lingua degli alieni. Ogni alfabeto modifica lo sviluppo cognitivo. La pellicola di Denis Villeneuve, appena uscita negli USA, quindi prende spunto da libri ma anche da questo film, su una nuova invasione extraterrestre, in realtà rimanda persino alle dispute tra Platone e Gorgia. Sapete che quando si cerca la vita nello spazio, perché sappiamo che dovrebbero esserci altri pianeti in altre galassie con condizioni che potrebbero permettere forme di vita, si cerca anche di trovare un linguaggio comune. Allora, per esempio, la storia del Pioneer, che comunica la posizione del nostro pianeta attraverso la posizione delle stelle pulsar. Un altro articolo molto interessante è il mondo che imita la mappa, sempre sulla lettura. Qui si parte da una mostra alla Fondazione Benetton di Treviso che parla del rapporto tra cartografia e guerre. La rappresentazione del territorio è una forma di interpretazione della realtà che in fondo la plasma. I romani lo sapevano e infatti vincevano seduti prima di combattere. La Repubblica, col suo supplemento cult della domenica, tra l'altro da domenica prossima verrà completamente rinnovato, lo segnala oggi La Repubblica. Vi dicevo, in 12 pagine il reportage di Ezio Mauro, viaggio in Italia cercando la sinistra, però vi segnalo anche le bellissime interviste della domenica di Antonio Gnoli, intitolate Straparlando. Questa settimana è Grazia Marchianò, ritratta come sempre da un ritratto di Riccardo Mannelli, che occupa, sono sempre interviste su due pagine, quindi il ritratto è al centro. Grazia Marchianò è una studiosa di estetica comparata e è famosa anche per i suoi studi quindi sull'India e sul buddismo, e nel 2009 ha costituito l'Associazione Internazionale di Ricerca Elemir Zolla, e quindi il titolo dell'intervista: intervista per Zolla, ho lasciato famiglie, per Zolla naturalmente se siamo francesi, ho lasciato famiglie e amici, ma alla fine si percorre la strada da soli. Dalle pagine di Cultura dell'Avvenire, Agorà, vi segnalo un bellissimo articolo di Gianfranco Ravasi, se è ancora lui, su David Maria Turoldo, perché sono passati 100 anni dalla nascita di questo prete, e l'articolo è intitolato Un canto che ritorna nel cuore. A 100 anni dalla nascita, il ricordo della sua poesia, di un'amicizia e delle confidenze nei giorni del dolore. Ultimissima segnalazione da Macro del Messaggero, il supplemento culturale del Messaggero che esce tutti i giorni, ma la domenica è ancora più ricco. L'articolo principale è dedicato al restauro, che viene definito high tech, della Sistina di Pisa. Conclusi i lavori per il risanamento del ciclo di affreschi trecenteschi del Camposanto Monumentale di Piazza dei Miracoli. Per salvare il giudizio universale di Buffalmacco sono stati usati batteri e tele del CNR simili a quelle per le gomme della Formula 1. Era l'ultima segnalazione per oggi, grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi che ci avete ascoltati, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.